Odissea 2011. In viaggio verso il futuro. Di Maurizio Melis. Sulla strada celere c'era la solita folla. I passeggeri in piedi sui livelli inferiori e quelli con diritto a sedere sui superiori. Un fiume continuo di umanità abbandonava la strada per abbordare i nastri locali o le uscite che, mediante ponti e arcate, immettevano negli infiniti labirinti dei settori cittadini. Dalla parte opposta, un flusso altrettanto continuo di viaggiatori saliva sulla strada sfruttando i nastri acceleratori. Baley balzava da nastro a nastro con la facilità di chi è abituato da tutta una vita. I bambini imparavano a saltare sui nastri non appena erano in grado di camminare. Baley a stento si accorgeva dell'accelerazione, nonostante la velocità aumentasse a ogni passo, né si rendeva conto di stare leggermente piegato in avanti contro la spinta. In 30 secondi raggiunse l'ultimo nastro, quello dei 100 all'ora, e poté trasbordare sulla piattaforma mobile, protetta da un tunnel di vetro, che era la strada celere. Buonasera, benvenuti a Odissea 2011. Non so cosa ne pensiate voi che siete in ascolto, ma personalmente io ho sempre trovato che fosse una grande idea questa qui dei nastri trasportatori che Isaac Asimov, scrittore di fantascienza che non ha bisogno di presentazioni, immagina usati da milioni di persone nelle grandi città sotterranee della Terra. Gli abissi d'acciaio, questo è anche il titolo del libro in cui i suoi abitanti si sono rifugiati dopo una guerra nucleare. Ormai il pianeta è una grande megalopoli, quasi un alveare, in cui i mezzi di trasporto privati sono praticamente inesistenti. Asimov immagina allora un sistema di nastri trasportatori, più o meno come quelli che si trovano negli aeroporti, che scorrono a varie velocità, però uno di fianco all'altro. Più lontano si deve andare, più conviene avventurarsi sui nastri veloci ai quali si accede gradualmente a partire da quelli più lenti. Insomma, questa sera qui a Odissea 2011, ultima puntata, cercheremo di immaginare come viaggeremo in futuro, come raggiungeremo per esempio il posto di lavoro e fino a che punto potranno accorciarsi le distanze. Si potrà per esempio andare da Londra a New York in solo 2 ore? Ebbene, questo passaggio di abissi d'acciaio che abbiamo sentito in apertura ci aiuta intanto a mettere nella giusta prospettiva il problema del trasporto. Pensare ai trasporti del futuro non può ridursi a ragionare meramente di tecnologie. Il modello di trasporto, per esempio, se debba essere privato piuttosto che pubblico, eccetera, eccetera, è almeno altrettanto importante. Ciò detto, non c'è dubbio che tutti noi vorremmo che la parola d'ordine dei trasporti del futuro fosse velocità. Beh, ascoltate qui. Questa foto scattata venerdì scorso mostra il centro sperimentale di Bilyarsk. Se osservate l'angolo in alto a destra potete vedere un grosso hangar. Osservate attentamente perché abbiamo motivo di ritenere che lì dentro ci sia la volpe di fuoco. Quando le prime notizie cominciarono a filtrare dall'Unione Sovietica 3 anni fa circa, i nostri specialisti riferirono alla NATO con assoluta convinzione che ai russi sarebbero occorsi 10 anni per mettere a punto un aviogetto capace di una velocità Mach 5 con armi di bordo comandate a impulsi mentali. Invece io vi ho convocato qui oggi per spiegarvi, con molto rammarico, che è stato un grosso errore. Era Firefox, La Volpe di Fuoco, film del 1982, prodotto, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Firefox è un aereo da guerra, estremamente evoluto, che preoccupa molto gli americani, capace di viaggiare, lo avete sentito, a Mach 5, cioè a 5 volte la velocità del suono. Il Mach è l'unità di misura tipica degli aerei supersonici e corrisponde appunto alla velocità del suono, circa 1200 km orari. Naturalmente, come sapete, esistono aerei in grado di viaggiare più veloci del suono. L'attuale record di velocità per un aereo con equipaggio umano appartiene al Blackbird, un aereo militare che però non supera Mach 3 ed è degli anni 70 questo aereo. E dopo che pochi anni fa è stato chiuso anche il capitolo Concorde, il famoso aereo supersonico di linea francese che collegava Parigi e New York in un paio d'ore, il volo supersonico è tornato ad essere un'esclusiva degli aerei militari. Ma perché? Ebbene, ce lo spiega il professor Cesare Cardani, docente di strumentazione e impianti aerospaziali al Politecnico di Milano, che ho intervistato qualche tempo fa. Ascoltate. Proprio la vicenda del Concorde dimostra come il tema della velocità sia arrivato ad un punto veramente decisivo. L'aerodinamica dei velivoli subsonici è diversa dall'aerodinamica dei velivoli supersonici. e la prospettiva del ritorno al volo supersonico è molto lontana, perché non possiamo crescere passo per passo da dove siamo con i velivoli subsonici o transonici come sono gli attuali aviogetti, perché la velocità del suono, la barriera del suono, rappresenta una cesura. Passare al di là vuol dire cambiare completamente la filosofia di progetto degli aerei. I profili alari sono diversi, le prese d'aria, quindi anche i motori diversi, basta sempre pensare ad esempio al Concorde, alle sue prese d'aria molto più spigolose rispetto a quelle di un velivolo subsonico. Naturalmente, nonostante tutte queste complicazioni, esistono molti progetti di aerei supersonici civili e periodicamente questo tema torna in auge, ma resta il fatto che per volare supersonico bisogna letteralmente cambiare forma all'aereo mentre è in volo. Non solo. Affinché il sistema di propulsione sia abbastanza efficiente, insomma non consumi lo sproposito, per esempio, di carburante che consumava il Concorde, pensate che quando atterrava pesava la metà di quando era partito per il carburante che aveva consumato. Ebbene, per evitare tutto questo bisogna ricorrere a un tipo di motore completamente diverso, che di solito si trova a bordo di razzi e di missili. Parliamo del ramjet o anche stato reattore, detto in italiano, e di tutte le sue varie versioni supersoniche e ipersoniche. Lo stato reattore può spingere un aereo a Mach 6 e al limite addirittura oltre Mach 20. A una velocità simile, tanto per dare un'idea, un viaggio dall'Europa all'Australia richiederebbe sì e no un paio d'ore tra decollo, atterraggio e quant'altro. Ma per accendersi uno stato reattore ha bisogno che l'aereo viaggi già a velocità quasi supersonica o addirittura supersonica e che si trovi anche già ad un'altezza tale che l'aria sia sufficientemente rarefatta, altrimenti l'attrito distruggerebbe il mezzo, il motore non funzionerebbe nemmeno. Questo vuol dire avere a bordo due sistemi di propulsione distinti, uno per la partenza, per decollare, per il volo basso e lento all'inizio, e poi un altro sistema di propulsione per la fase di crociera ad alta velocità e ad alta quota. Oppure un'altra alternativa è usare un aereo convenzionale che carica a bordo l'aereo supersonico in modo da poterlo lanciare raggiunta una quota e una velocità adeguati. Insomma, capite che è tutto molto complicato e tutto molto costoso. Ma siamo proprio sicuri che per viaggiare veloci, per viaggiare a qualche Mach, si debba necessariamente volare lassù, insomma, addirittura sopra la parte più densa dell'atmosfera? Ascoltate il servizio. Ricercatori dell'Accademia delle Scienze cinese e della Chinese Academy of Engineering hanno dichiarato che presto sarà possibile viaggiare in treno a 2000 km orari. Per raggiungere queste velocità, il nemico da sconfiggere è l'attrito. A tale scopo, la prima cosa da fare è eliminare le ruote. I treni a levitazione magnetica, o maglev, come quello che collega Shanghai all'aeroporto di Pudong, raggiungono questo obiettivo sospendendo le carrozze su un forte campo magnetico. In questo modo il treno non tocca i binari e l'attrito con il suolo è completamente eliminato. Il record di velocità per questo tipo di treni è di 581 km orari e appartiene al JR Maglev MLX-01, sviluppato dall'Istituto Giapponese per la ricerca sui sistemi ferroviari. Per spingersi a velocità ancora superiori, resta da eliminare anche l'attrito con l'aria. Virtualmente, un treno a levitazione magnetica che viaggiasse all'interno di un tunnel sottovuoto, si parla in questo caso di VAC train, potrebbe arrivare ad alcune migliaia di chilometri orari, con consumi energetici risibili. La Cina sta puntando molto su questo tipo di sistemi di trasporto, tanto che i ricercatori cinesi parlano di un paio d'anni d'attesa prima di poter salire su un VAC train da 1000 km all'ora. Ma al Massachusetts Institute of Technology si pensa già a tunnel oceanici, in grado di collegare l'Europa al continente americano alla velocità di 6000 km orari, come dire viaggiare da Londra a New York in 60 minuti. Ebbene, dovete sapere che i VAC train, cioè questi treni a levitazione magnetica sottovuoto, sono stati rappresentati in moltissimi lavori di fantascienza. Arthur Clarke, che è anche l'autore proprio di Odissea 2001, da cui prende il nome anche la nostra trasmissione, li aveva inseriti nel suo racconto Rescue Party già nel 1946. Il 1946, guarda caso, è l'anno successivo al ritrovamento degli studi dell'ingegnere americano Robert Goddard, che aveva progettato in dettaglio un Vactrain, pensate un po', già nel 1910, ma poi se n'era persa traccia per oltre 30 anni. Perché allora così pochi progressi, se l'idea in fondo ha anche un bel po' di anni? Più di un secolo. Il fatto è che la levitazione magnetica è una tecnologia complessa e anche piuttosto energivora, e anche le linee, diciamo, sono ben più complesse di due normali rotaie. Insomma, l'infrastruttura per far viaggiare questi treni a levitazione magnetica, figuriamoci sottovuoto, è estremamente costosa. Un passo avanti molto significativo, va detto, è l'invenzione del sistema Inductrack, che è stato sviluppato da un fisico, Richard Post, del Lawrence Livermore National Laboratory, che però ancora non è stato applicato, diciamo così, da un punto di vista pratico. Ma il santo graal della levitazione magnetica non è nemmeno questo sistema. La levitazione magnetica ideale la si potrebbe ottenere chiamando invece in causa, anzi la si può ottenere chiamando in causa una delle proprietà più incredibili, più sorprendenti della materia, una proprietà scoperta esattamente un secolo fa, nel 1911. Parliamo della superconduttività. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro. Eccoci di nuovo in studio, bentornati, benvenuti a coloro che si sono affacciati solo adesso alla nostra trasmissione Odissea 2011. Parliamo dei mezzi di trasporto del futuro, quelli non, diciamo, che servono a portarci nello spazio, ma quelli che magari come pendolari potremmo prendere tutti i giorni. Abbiamo parlato nella prima parte di Vactrain, treni a levitazione magnetica come il Maglev, appunto, che collega Shanghai al suo aeroporto, che in più viaggiano dentro a tubi sottovuoto. In questo modo si eliminano tutti gli attriti e questi treni possono viaggiare ad altissima velocità. Abbiamo capito che c'è un modo per fare, diciamo, sistemi di questo genere tutto sommato economici, ma questo chiama in causa la cosiddetta superconduttività, una proprietà sorprendente che è stata scoperta all'inizio del Novecento. Ce ne parla Domenico Campi, che è responsabile dei magneti superconduttori dell'LHC, è il più grande acceleratore di particelle del mondo, si trova in Svizzera, quasi tutti lo conoscono, e ci spiega che cos'è la superconduttività. Ascoltiamo. La differenza fra i materiali normalmente conduttivi o cosiddetti resistivi, nella fattispecie l'alluminio, il rame, l'argento, e i materiali superconduttori è quella che alcuni materiali portati a temperature estremamente basse, lo zero assoluto, la temperatura più bassa raggiungibile in natura, è il cosiddetto zero Kelvin, cioè meno 273 gradi centigradi. Ecco, alcuni materiali portati a temperature, per esempio quelle di ebollizione dell'elio a pressione atmosferica, cioè di 4,2 Kelvin o più semplicemente meno 269 gradi centigradi, perdono la cosiddetta resistività, cioè perdono la loro caratteristica di contrapporsi al trasporto di energia e permettono di trasportare quantità enormi, molto più alte, con le migliaia di volte più alte di correnti, praticamente senza perdite, quindi senza generare calore e senza sciupare, diciamo così, energia nel trasporto. Oltre a condurre elettricità senza alcuna dissipazione, i superconduttori hanno anche un'altra proprietà davvero spettacolare, proprio spettacolare, perché se guardate qualche filmato su YouTube a proposito di levitazione magnetica rimarrete sorpresi. Infatti questi materiali producono campi magnetici estremamente intensi, ma hanno anche un'altra specialità, diciamo così: se li mettete sopra un altro magnete, questi iniziano subito a levitare, memorizzano la propria posizione relativa rispetto al magnete in questione, è così, per esempio, se il magnete ha la forma di una pista, il superconduttore galleggerà avanti e indietro su questa pista come se fosse ancorato ad essa, ma senza mai toccarla. Insomma, la levitazione magnetica perfetta. D'altra parte, campi magnetici estremamente intensi riescono a far levitare un po' di tutto, molti materiali, per esempio tra cui l'acqua, di cui siamo composti in gran parte. Tant'è vero che qualche anno fa, grazie a un campo magnetico di 16 Tesla, che è un campo magnetico potentissimo, fu fatta, pensate, un po' a levitare una rana viva. Peccato che, appunto, campi magnetici così intensi sono pericolosi se nei dintorni c'è qualche oggetto di ferro o di altri materiali ferromagnetici che vengono attirati con grande violenza e si trasformano praticamente in veri e propri proiettili. Chissà però se non sia proprio qualcosa del genere a far funzionare e a far lievitare il mezzo di trasporto più usato sul pianeta Tatooine, dove stiamo per andare per pochi secondi. Ascoltate. Attenzione, c'è un droide sullo schermo, dritto di prua. Potrebbe essere la nostra unità C1. Accelera. Ehi, tu, dove ti credi di andare? E Luke è ora il tuo legittimo proprietario. E basta con le chiacchiere a vanvera sul tuo Obi-Wan Kenobi. Beh, gli appassionati di fantascienza avranno di sicuro riconosciuto questa sequenza in cui Luke Skywalker, parliamo evidentemente di Star Wars, sfreccia a bordo del suo Land Speeder, un piccolo veicolo grande quanto un'automobile che però ha questa caratteristica decisamente sorprendente di rimanere sospeso per aria. Non è che George Lucas, che insomma è l'inventore di tutto l'universo di Star Wars, si sia sentito in dovere di spiegare come fa questo Land Speeder a galleggiare, ma possiamo immaginare una sorta di antigravità, grazie alla quale Luke Skywalker si aggira un po' dappertutto, va in giro su ogni superficie. C'è chi non esclude del tutto che prima o poi si possa arrivare anche a questo, ma diciamolo, siamo lontani veramente anni luce dal riuscirci. La levitazione magnetica, di cui abbiamo invece parlato fino a poc'anzi, ha bisogno invece proprio di un binario o di una pista. Questo però non significa necessariamente treni. Ascoltate il prossimo servizio che ci presenta una delle tecnologie e delle idee, io direi più innovative in fatto di potenziali mezzi di trasporto del futuro. Sentite. Liberare le strade dalle automobili e riconsegnarle agli esseri umani. È questo l'obiettivo di SkyTran, un innovativo sistema di trasporto pubblico individuale concepito da Douglas Malewicki nel 1990 e ora in corso di sviluppo sotto l'ala protettrice della NASA. Si tratta di un sistema di trasporto leggero mediante veicoli biposto che viaggiano appesi a un binario magnetico a pochi metri da terra. Il passeggero sale a bordo del mezzo, una piccola cabina molto aerodinamica, che viene accelerato e immesso sul binario principale, dove viaggia a velocità costante assieme a tutti gli altri. Parliamo di circa 160 km orari. Alla guida pensano i sistemi di bordo, mentre il passeggero legge il giornale o si dedica ad altre attività. Giunto a destinazione, il veicolo esce dal binario principale e viene immesso in una corsia di decelerazione fino a fermarsi. In futuro una rete di binari magnetici sopra elevati potrebbero sostituire le odierne metropolitane a costi di realizzazione decisamente inferiori. Inoltre sarebbe molto più flessibile, garantendo velocità più elevate, consumi bassissimi e, soprattutto, la possibilità di seguire itinerari personalizzati. Ebbene, anche per realizzare lo SkyTran l'uso dei superconduttori sarebbe estremamente utile. Il guaio, come avete capito, è che per rendere superconduttivi i materiali ci vogliono temperature bassissime e qui sta il problema. La tecnologia dell'elio liquido, per esempio, è estremamente costosa. Per questa ragione in molti laboratori di ricerca si lavora per cercare di mettere a punto materiali superconduttori che funzionino a temperatura ambiente o anche solo alla temperatura dell'azoto liquido, circa 190 gradi sotto zero. È una tecnologia, quella dell'azoto liquido, però molto più semplice di quella dell'elio liquido. C'è però un altro modo di viaggiare che non potevamo assolutamente dimenticare, non qui a Odissea 2011, ed è un modo di viaggiare che non ha bisogno di presentazione. Ascoltate. Ehi, Kirk, sono pronto a risalire. Un momento, capitano. Direi che c'è qualcosa di insolito. Prenda il metro sincronico per maggior sicurezza. Sì, signore. Si tenga pronto. La faccio risalire. Diario del capitano. Data astrale 1672.1. Rapporto sulla missione esplorativa sul pianeta Alfa 177. Ad insaputa mia e di tutto l'equipaggio, un guasto al teletrasporto aveva generato un mio duplicato. Le conseguenze non avrebbero tardato a manifestarsi. Ebbene, era una sequenza presa dal telefilm Star Trek, la serie classica, e precisamente dall'episodio Il Duplicato, in cui un guasto al teletrasporto duplica il capitano Kirk, creando una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Potrà sembrare sorprendente, ma il teletrasporto è certamente possibile, anzi è già stato realizzato. Si parla per la precisione di teletrasporto quantistico. Antonio Di Domenico, che è fisico dell'Università della Sapienza di Roma, ci fa il punto della situazione su quello che è certamente il re di tutti i sistemi di trasporto immaginabili. Sentite. Il concetto di teletrasporto è quello che abbiamo in mente dalla famosa serie televisiva Star Trek. Si tratta di smaterializzare un oggetto fisico e materializzarlo in un sito distante da quello in cui si trovava precedentemente. E questo concetto, quindi di smaterializzare un oggetto e ricomporlo in un sito distante, è un po' fuorviante, perché non è effettivamente quello che è possibile attuare col teletrasporto quantistico. Quello che viene effettivamente trasportato, inviato da un sito all'altro, non sono materialmente gli atomi con cui è composto l'oggetto, ma è in effetti l'informazione, cioè tutta l'informazione necessaria per caratterizzare lo stato di questo oggetto in un sito particolare. Potremmo portare come esempio, per far capire al pubblico, quello del fax. Un'altra caratteristica importante, e che è verificata in effetti col teletrasporto quantistico, è che l'informazione originale viene distrutta, è persa. Cioè c'è un teorema in meccanica quantistica che vieta assolutamente la possibilità di replicare perfettamente un oggetto mantenendo però l'originale, così che alla fine noi abbiamo sia l'originale che la copia. Questo non è possibile. Beh, allora, intanto abbiamo capito una cosa, che il teletrasporto non permette alcun tipo di duplicazione. E anche un'altra cosa, che teletrasportare qualcosa o qualcuno è come mandare un fax in cui l'originale viene distrutto e non è come spedire un pacco, quindi. Ci dobbiamo fermare qui per quanto riguarda il funzionamento del teletrasporto. Per la verità ci sono due meccanismi diversi, perché comunque è qualcosa di estremamente complesso. Sta di fatto che oggi gli scienziati riescono a spedire per teletrasporto pacchetti di materia sempre più grandi, ma anche gli esperimenti di maggior successo non vanno oltre qualche migliaio di atomi ultrafreddi, una roba davvero complicata. Trasportare una sola molecola di DNA è qualcosa di lontanissimo dalle nostre possibilità attuali. Figuriamoci un intero organismo umano che è formato da oltre 100.000 miliardi di cellule. Ma supponiamo pure di riuscire a superare le incredibili difficoltà tecniche che ci separano dalla possibilità di trasportare un corpo umano. Resta ancora una domanda, e a ricordarcela il nostro Di Domenico. Sentite. Cioè, qui dobbiamo porci una domanda fondamentale, nel senso che noi qui stiamo trasferendo l'informazione quantistica di un sistema da un posto a un altro. Se questo sistema è un essere vivente, siamo proprio sicuri che l'informazione quantistica è tutto quello che c'è da sapere per trasferire l'essere vivente da un posto a un altro? O c'è qualcosa che ci sfugge ancora? Beh, cosa dire, forse non ci poteva essere conclusione migliore per questa nostra Odissea 2011, che si conclude qui e ci lascia con un'altra delle grandi domande che la fantascienza è in grado di sollevare. D'altra parte è la tecnologia oggi a porci davanti ad alcuni degli interrogativi più profondi. Ci fermiamo qui, io voglio ringraziare Franco Piantanide e Alessandro Balia per i contributi, e naturalmente tutti voi che ci avete seguito. Da Maurizio Melis un saluto, buona rientro, buona continuazione delle vacanze, a secondo di dove vi trovate, e buona prosecuzione anche sulle frequenze di Radio 24.